Bentornati carissimi amici Radio Pazzoide, finalmente dopo tantissimo tempo sono qui di nuovo con voi qui su Radio Pazza e su yastaradio.com. Io sono Buck e questa è Back to the Future, episodio numero 9. Per ricominciare in grande stile vi metto nelle orecchie questo pezzo. Loro sono i Zero Musicians con una traccia nuova per l'appunto, ovvero New. Era ovviamente un banalissimo gioco di parole, almeno il titolo, perché di banale in questo articolato incastro di suoni c'era proprio poco o nulla. Adesso però ci rilassiamo bene bene sull'onda estiva del reggae. Ho pescato su Jamendo questa cover realizzata da Missing Red. Si tratta di un successo dei 99 posse che vedeva Meg e Zulu insieme al microfono. Si tratta di Cortocircuito. We'll be right back. Sarà perché è estate, sarà perché anche il reggae ha la sua componente elettronica, ma questo pezzo ci stava proprio tutto. Ora che siamo belli rilassati, che ne dite di un po' di funk? E allora pappatevi gli Sleep Tone con Funk Agent 1. Thank you. Ok, ci stiamo scaldando. È già l'estate torrida, la colonnina di Mercurio sta salendo vertiginosamente. Ok, non dimentichiamoci di lasciare un po' di dati e soprattutto se volete lasciare un commento sul blog di Radio Pazza, il link è radiopazza.blogspot.com. Da lì trovate poi tutti i collegamenti ai vari social network, Facebook, Friend Feed, eccetera, eccetera. E anche i links per scaricare i nostri podcast con iPhone e iPad soprattutto. E poi ancora altri collegamenti a yastaradio.com, alla nostra posta elettronica radiopazza@gmail.com, ma soprattutto i links per votare Back to the Future e Music Escapes della sorella Prisma agli European Podcast Awards. E quindi che aspettate? Sostenete anche voi la musica Creative Commons, alla faccia della SIAE maledetta. E visto lo stato d'animo, ci spariamo i Dynamo 414 con featuring di Lunchbox. Questo pezzo si intitola I Love Hip Hop. Yo, this fucking joint won't hit. What'd you do to it? Why'd you roll it so gay? There it is. I got it. Yo, before I start this track, I just want to say one thing. I love hip hop. I love this hip hop life. Spell my heart out. Number one thing in my life. Hey y'all. These days, I guess it's normal to hustle. Everybody's on the grind trying to see through the struggle and trying to see money in bundles, but they don't think of the downside. The bluest eyes can turn green in the hardest times, and in the hardest rhymes, you hit a lack of passion. Yo, what you rhyming for, man? That is all that I am asking. You say you hip-hop, but got characteristics of acting. It all fell to shit when cash money came, what happened? Influenced by the loot and then forgot about the truth. Like a rookie, this is an icon and ripped out his own root. I say this shit in confidence, never take me the wrong way. I'm faithful to hip-hop, you'll never draw me away. That's my homie, my best friend, and the one that I stand for. The one to keep me strong to win the battles of war. And all you played out hot shots, you just take it for granted. Hey yo, don't let me roll hip hop, I take your shit and then ban it. What you call bad music, I call hip hop. What you call bad influence, yo, I call hip hop. What you call just noise, yo, I call hip hop. Yo, I love hip hop, I said I love hip hop. What you call bad music, I call hip hop. What you call bad influence, yo, I call hip hop. What you call just noise, yo, I call hip hop. Yo, I love hip hop, I said I love hip hop. You know, a lot of people ask what I believe in. It's hard to make the choice of what I see and what I'm feeling. I try to make every decision with persistence, but yet I even question the thought of God's existence. The only thing that I know is that hip-hop will live on and live strong, cause truthfully it's all we got. The only thing we need is two turntables and a mic. It's people like Dolores Tucker that we live to fight. Politicians and critics, you all wanna fuck us up the ass, but yet you want a piece of the game because it brings cash. Your heart, it won't last because this game is so vicious. It'll chew you up and spit you out and turn you into bitches. Look at Robert Van Winkle, that's a joke in his choice form. He took the highway to hell but got lost in his own storm and couldn't find his way back up to reality. He did it cause he liked it, but yet he loved the salary. What you call bad music, I call hip-hop. What you call bad influence, yo, I call hip-hop. What you call just noise, yo, I call hip-hop. Yo, I love hip-hop, I said I love hip-hop. What you call bad music, I call hip-hop. What you call bad influence, yo, I call hip-hop. What you call just noise, yo, I call hip-hop. Yo, I love hip-hop, I said I love hip-hop. I remember back in the days when hip-hop was hip-hop. It was never even heard of having a legend shot. Everybody just got caught up in beef. Egos got in the way, and so they took it to the streets. But yet I guess with every good that comes bad. I remember when Pac was shot, man, it was so sad. And then Big died, and man, that was it. And everybody realized it wasn't worth giving a shit. Then all the rumors started of Pac faking his own death. What are you fucking stupid? Keep that under your own breath. Or was it a struggle just to keep the man alive? I guess hip-hop heads didn't want to live the fact that he died. I guess it's hard to lose something you love so much. Like me with hip-hop, well yeah, I'll never lose touch. I swear to keep it pure and I'll never do less. The hip and with the hop, well you can carve it on my chest. What you call bad music, I call hip-hop. What you call bad influence, yo, I call hip-hop. What you call just noise, yo, I call hip-hop. Yo, I love hip-hop, I said I love hip-hop. What you call bad music, I call hip-hop. What you call bad influence, yo, I call hip-hop. What you call just noise, yo, I call hip-hop. Yo, I love hip-hop, I said I love hip-hop. Mi piace, parole in flusso continuo, spezzate in metrica e ritmica. Continuiamo così, vi lascio senza fiato con questa chicca brasiliana, dove il rap non si ferma mai. Poetize Code featuring Rylex, Verbo Beat. Histórias contadas em versões contrárias de Forrest Gump. Isso daqui faz parte de minha realidade, minhas verdades, e muitas vezes não tão estimulante. Sangue pulsante que escorre pelo sentimento e sai pela boca em um tom espumante, sensações escaldantes, rosto abatido, pulmões atrofiados, diversos acontecimentos irrelevantes em forma de realidade. Gente com fome sem onde morar, sem dinheiro pra comprar, pensando nos sonhos e com medo de encarar a vida pela frente, num mundo tão decadente, fazendo pedido a cada estrela cadente que cai e corre pelo céu, tentando ser forte bastante, passar segurança aos teus filhos ao mesmo tempo que lembra da infância, os sonhos de criança, as brincadeiras, as cirandas, meditações com sensações de esperança divina, sabendo que as situações passadas um dia trará alívio com o time. Motivação pra encarar a vida, abrir as portas pra trilhar outros caminhos, agir com sabedoria e determinação, livrando do caminho das ruínas, blasfema, maledicência, abrir os trilhos da benevolência, tirar a essência do que é natural, ter uma vida de forma harmoniosa, cheiro de rosas, mas o sentido não é igual, bem o mal, a vida, os sentidos, as canções, as verdades, o caminho tenso, extenso, no fervor da realidade, há mágoas e sorriso nas buzinas da cidade, amor de família é eterna, é verdade, um caminho só, mas em busca de toda a sinceridade, a união dos amigos tonificarão as cores com luminosidade. Che figata, ragazzi, ci vuole pazienza, ma in rete a gratis ci stanno proprio cose spaziali. E poi sarà... Ma a me il brasiliano sembra avere la cadenza dell'accento genovese, mi piacerebbe proprio visitare Bahia un giorno, i sogni sono desideri. Adesso però rimaniamo in Italia con Mou, che ci fa vibrare con Notte di Luna, e vai! La mica onda, caro vecchio drum and bass. È come i blue jeans, ovvero mai fuori moda. Infatti a Roma manca un locale dove si possa ascoltare e ballare questo genere. Comunque, vabbè, la capitale. Ne approfitto per salutare il mio amico MCRV, lui è inglese ma ormai vive a Barcellona da tanti anni, il mitico Ross. Che ne dite adesso di rallentare un po'? Vi suggerisco della sana e libidinosa Intelligent Dance Music con Bliss, vecchio pseudonimo ormai in disuso del grande Eric José, che ci ha fatto poi sballare nei podcast di Music Escapes di Prisma. È veramente assurdo che non se lo stiano litigando le etichette più importanti, sinceramente non ho parole. Ok, basta, sto zitto. Questo è Eric José alias Bliss con Rain Slows the Time. Thank you. Ma che bella architettura, che bello spazio che si crea con la musica di Henrik. Ora, non posso svelare troppe cose, ma qui a Radio Pazza vi stiamo preparando delle sorpresone. Taci, boccaccia mia, taci. Adesso è il turno di un gruppo bello energico, per capirci mi ricorda da lontano i Nine Inch Nails. Sto parlando degli Unfactory con Change the Fairy Tale. Amici, oggi facciamo su e giù come su di un otto volante. Mi sto ubriacando di generi diversi a diverse gradazioni. Mi sa che mi aspetta un durissimo hangover. Ok, rimaniamo fedeli a quest'andazzo e cambiamo ancora. Deji Heuji con Feel the Difference. We'll be right back. Ladies and gentlemen, siamo in chiusura e ci salutiamo qui, ma non senza darvi appuntamento per settembre prossimo 21 su Radio Pazza e Yasta Radio con un nuovo episodio di Back to the Future. Per esprimere al meglio la mia melo-ubriachezza, direi, vi lascio perdervi tra le note i cluster di Igor e la sua Esophage de Tourterelle. Un caldo e sinusoidale abbraccio da Bacca.